la leggenda che mi ha sempre contato, che sti anni le spose, quelli che si sposava e le portava al castello, sì, 3-4 notti, 3-4 giorni, non so, che dopo si abbattuti. Chi è quelli che si abbattuti? Non so che tipo di guerra. Che tipo di guerra, perché stai assediati per 7 anni, Castel Besino. Per 7 anni. Ben. E lì non voleva più, non era più nessuno che voleva sposarsi, non voleva più dargli le donne, e vien fuori che si abbattuti. Sì, e a fare una guerra tra civili e quei che era dentro, ecco. E sa fa allora, gli è stai assediati per 7 anni, gli aveva l'ultima vacca, gli aveva l'ultimo frumento, gli aveva la coppa alla vacca, gli dà l'ultimo frumento alla vacca, gli ha buttato dalle mura la carca, la roba della mucca, la panza con dentro la roba, e gli ha detto per 7 anni che se me stai, per 7 che staremo, viva il Castel Besin. Ecco, l'hai mai sentito questa, no? Ecco.